24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano l'intervento del presidente della BCE Mario Draghi all'Europarlamento, mentre l'Europa si prepara a una settimana cruciale per la sopravvivenza dell'euro. Sarkozy propone un nuovo trattato per l'Unione. In Italia si parla di riforma delle pensioni, vi spiegheremo la situazione nel vecchio continente. Oggi a 24 ore in Europa pure le sanzioni europee contro società e personalità legate al regime iraniano. E a chiudere una ricordo della scrittrice tedesca Christa Wolf. In apertura alla crisi, con il presidente della BCE Mario Draghi che lancia un monito ai governi, devono recuperare credibilità. Draghi ha segnalato la disponibilità della BCE ad attaccare in modo aggressivo la crisi del debito se i governi si accorderanno per controlli di bilancio più stretti. Sentiamo. Il rallentamento dell'economia e poi la stretta del credito che strozza soprattutto le piccole imprese. È una fase difficile quella in cui ci troviamo perché le misure anticrisi non hanno ancora prodotto effetti sulla fragilità dei mercati. Usa parole dure Mario Draghi nella sua audizione davanti all'Europarlamento, la prima in qualità di presidente della Banca Centrale Europea, e sprona i governi spiegando che occorre recuperare credibilità e affidabilità tenendo non solo a bada i conti ma puntando sulla crescita con riforme strutturali. Ma soprattutto, secondo Draghi, serve un nuovo patto di bilancio che porti l'eurozona verso l'unione fiscale, un segnale forte per i mercati, dunque che passi anche per un cambiamento dei trattati. E in questo senso i prossimi giorni saranno cruciali. Il numero uno della BCE ha infine parlato del ruolo della Banca Centrale, definendola l'ultimo baluardo dell'unione monetaria, ma precisando che sta già facendo tutto ciò che è in suo potere e che un suo ulteriore coinvolgimento ne minerebbe la credibilità. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. L'Europa guarda intanto al prossimo Consiglio europeo, mentre Francia e Germania preparano per lunedì un vertice straordinario. In un atteso discorso alla nazione, il presidente francese Sarkozy ha annunciato che Parigi e Berlino proporranno un trattato che rifondi l'Europa. A una settimana dal prossimo delicatissimo Consiglio europeo, i paesi della zona euro continuano a fare i conti con la crisi debitoria. Ormai è chiaro a tutti i governi che la strategia deve avere due aspetti. Da un lato la modifica dei trattati per sancire una nuova disciplina dei conti pubblici almeno a medio termine e dall'altro il potenziamento del Fondo di Stabilità Europeo, magari attraverso il Fondo Monetario Internazionale, per garantire alla zona euro un paracadute finanziario, questa volta a brevissimo termine. Su questo fronte la partita è difficile. Alcuni paesi, nella riunione dei ministri finanziari tra martedì sera e mercoledì mattina, hanno aperto la porta a un uso più aggressivo della Banca Centrale Europea, che acquistando titoli pubblici sul mercato potrebbe calmare le tensioni. Per ora la Germania blocca questa strada per paure di monetizzazione del debito, ma molti osservatori credono sia solo questione di tempo prima che l'Ecofin a un certo punto si arrenda a una soluzione controversa, ma ormai urgente. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Giornata all'insegna del nervosismo sui mercati per l'Europa, che chiude sui minimi dopo il rally della vigilia in scia all'andamento di Wall Street, contrastanti le indicazioni dagli Stati Uniti. Milano, sopra la parità per quasi tutta la seduta, ha perso lo 0,16%. Giornata all'insegna del nervosismo per le borse europee, che hanno chiuso sui minimi di seduta dopo il rally della vigilia. Milano è arrivata a guadagnare quasi l'1% nel pomeriggio, reduce da un balzo del 9,6% in quattro sedute, ha poi terminato sotto la parità con il FTSE MIB a meno 0,16%. La migliore sul paniere principale è stata Fonsai, più 9,3%, che ha beneficiato dell'ipotesi relativa alla creazione di un veicolo di cui verrà ceduto il 35-40%. In cui far confluire le partecipazioni strategiche, tra cui quindi Mediobanca, RCS e Pirelli. Bene anche in pregilo, più 1,7%, grazie alle indiscrezioni riportate dal Sole 24 Ore sull'arrivo alla direzione generale dell'azienda del manager Claudio De Conto. Tra i titoli negativi, Mediaset ha segnato meno 1,6%. Secondo gli operatori, il ritiro di Sky Italia dalla gara per le frequenze del digitale terrestre potrebbe comportare un cambiamento delle regole nel settore e un peggioramento dello scenario per il gruppo di Cologno Monzese. Livia Zancaner da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le misure del Premier Mario Monti saranno presentate lunedì, ma ci sono già polemiche sugli interventi previdenziali. Fronte previdenza caldo anche in Gran Bretagna, dove ieri contro le misure di David Cameron c'è stato uno sciopero generale. Vediamo allora qual è la situazione in Europa. Tra gli europei sono i tedeschi più attenti alla spesa previdenziale fin dalle riforme introdotte negli anni 90. Quando un lavoratore va in pensione riceve dal sistema pubblico in media il 64% dell'ultimo reddito. Un tasso, tecnicamente si chiama di sostituzione, che può scendere al 46% per i redditi più alti. Il tasso medio in Italia sale invece all'88,3%, al 71% per le fasce alte di reddito, mentre in Francia è del 77,9% e in Spagna supera il 95%. Per frenare la spesa, la Germania, oltre ad aver innalzato l'età della pensione a 67 anni, che verranno raggiunti entro il 2029, ha introdotto un sistema che penalizza chi esce prima. L'assegno viene ridotto del 3,6% per ogni anno in meno di lavoro e premia chi resta con un bonus del 6% all'anno. Non solo, il periodo minimo di contribuzione per lasciare il lavoro è di 45 anni e l'assegno finale verrà in futuro corretto al ribasso per tenere conto della più lunga aspettativa di vita. Meno tempestivi nelle riforme sono stati invece paesi come Francia e Spagna. Solo l'anno scorso Parigi e Madrid hanno varato riforme che alzano l'età della pensione e correggono le formule di calcolo. Roberta Miraglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nessun miglioramento per l'Italia sul fronte corruzione. Il livello percepito è molto alto nel nostro paese, rivela la classifica dell'organizzazione Transparency International presentata a Berlino. Ci piazziamo al poco invidiabile 69esimo posto su 182, quart'ultimi in Europa davanti solo a Grecia, Romania e Bulgaria. I ministri degli esteri comunitari hanno condannato l'attacco all'ambasciata britannica a Teheran, ma non hanno accolto la richiesta fatta dal ministro degli esteri inglese William Hague di un ritiro concordato dei 22 ambasciatori comunitari presenti a Teheran. Si tira la corda che almeno per ora non si spezza. Due giorni dopo l'assalto all'ambasciata britannica, l'Unione Europea ammette altre 180 società iraniane nella lista nera dove i fondi sono congelati e i visti negati, ma non taglia i ponti con il regime. Le 22 feluche accreditate UE a Teheran non se ne andranno insieme con un gesto plateale come chiesto da Londra, ma manifesteranno la preoccupazione dei governi con il rituale richiamo individuale e temporaneo in patria, cosa che per l'Iran oggi suona come una mezza vittoria. Nella faida nucleare le ombre ormai dominano un copione fatto di omicidi di scienziati del regime e di proteste di massa dallo stesso pilotate. Teheran ha ammesso da tempo di aver sviluppato un programma nucleare in clandestinità per quasi 20 anni e pretende che il mondo creda alla sua buona fede quando spiega che ha una destinazione civile. Pochi gli credono, tra questi non c'è Israele che l'Iran ha più volte minacciato di distruzione. Per il momento non abbiamo intenzione di agire, ha detto proprio oggi il ministro della difesa di Gerusalemme Barak, per il quale l'atomica di Teheran è già innescata con un congegno a orologeria. Finché le azioni coperte terranno a bada le lancette, allora ci sarà tempo per trattare. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Rifiuti in Campania, si avvicina la multa europea. Intanto il ministro Clini non esclude l'invio dell'esercito, ipotesi che trova l'opposizione della giunta comunale. Il ministro dell'ambiente Corrado Clini sabato sarà a Napoli per un vertice sui rifiuti in prefettura con il sindaco Luigi De Magistris, il presidente della regione Stefano Caldoro ed il presidente della provincia Luigi Cesaro. La situazione dei rifiuti in città e in Campania, ha detto ieri Clini durante una audizione in commissione alla Camera, è al limite. Si deve pensare a soluzioni eccezionali senza escludere il contributo delle forze dell'ordine e dell'esercito. A Clini, che è tornato a parlare di termovalorizzatori, ha risposto il vice sindaco di Napoli. Perché invece di parlare di termovalorizzatori, ha detto Tommaso Sodano, non si parla degli impianti di compostaggio? Al ministro, ha continuato, illustreremo il nostro piano, differenziata, 3 siti di stoccaggio e navi per l'Olanda. Da 2 giorni intanto la città è di nuovo alle prese con cumuli di rifiuti e proteste. A preoccupare Clini è anche la procedura di infrazione avviata dall'Unione Europea. L'Italia ha ottenuto solo 60 giorni di proroga per presentare il proprio piano rifiuti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È morta a Berlino all'età di 82 anni Christa Wolf, una delle maggiori scrittrici tedesche del dopoguerra. Christa Wolf, la scrittrice morta oggi a 82 anni, è una delle figure più emblematiche della storia della Germania nella seconda metà del Novecento, della sua divisione prima e della riunificazione poi, con i problemi, le ansie e le disillusioni che ne sono seguite. A darle notorietà era stato già nel 1963 il suo primo romanzo, Il cielo diviso, titolo più che mai simbolico, storia di un amore impossibile al di là e al di qua del muro. Tra gli altri suoi libri, riflessioni su Cristati del 68 e le rivisitazioni di miti classici come Cassandra e Medea. Spesso critica nei confronti del governo della Germania comunista, la Wolf non aveva mai seriamente posto in discussione l'ideologia socialista. Famoso il suo appello ai concittadini della DDR a non lasciare il paese il giorno prima dell'apertura del confine tra le due Germanie e della caduta del muro. Nel 93 fece scalpore la notizia di una sua collaborazione con la Stasi, la polizia segreta della DDR, dal 59 al 62, poi ridimensionata. Una questione affrontata dall'autrice in Congedo dai fantasmi, altro titolo significativo di un'esistenza. Stefano Salis, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per il nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.